Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a contatto nuovamente con la musica live con Gilles Facchinelli e Rock Wave Live, Io mi racconto. Questa sera entriamo veramente nel vivo del rock. Che tipo di rock? Lo scopriamo insieme tra pochi minuti con la band dei Dead After Weekend. Dico bene, ragazzi? Dead After Weekend. Grazie, grazie Dieter. Allora, con noi avete già sentito la voce, Dieter. Confermo, buonasera a tutti. Voce e chitarre. Esatto. Poi abbiamo Ale Bassister. Sì, ciao a tutti. Ciao Ale. Marco Peocoloco alle chitarre. Esatto, ciao. E infine Enrico Maria Rossi, batteria. Esatto, ciao a tutti. Ecco ragazzi, allora benvenuti a Radio Cooperativa e ovviamente grazie per la disponibilità a fare questa chiacchierata tra amici. Grazie per averci accolto in studio. Partiamo inevitabilmente dal nome del gruppo, e immagino legato anche al vostro stile di vita, Diesel. Sì, diciamo allo stile di vita, ma anche un po' a quelli che sono i trend dei giovani, almeno in quest'ultimo periodo, cioè vivere un weekend a mille per poi ritrovarsi il lunedì mattina che, diciamo, si è più morti che altro. Sì, sì. Quindi ricominciare è un po' dura. Questo l'ho visto anche nel video dove c'è quel ragazzo, esatto, che alla fine finisce pieno di lattine di birra attorno a sé. Bellissimo. E dopo parleremo comunque anche dei video. Certo. Allora cominciamo a parlare un po' di voi, quindi una band tutta padovana, è così? Allora, diciamo che è tutta padovana se guardiamo i documenti, ma in realtà io vengo dalla fantastica Puglia. Infatti saluto, se c'è qualche pugliese in ascolto, lo saluto in quanto conterraneo. Però siamo insieme da 4 anni, proprio subito dopo il mio trasferimento qui a Padova ci siamo trovati insieme quasi per caso, e perché tramite amici di amici siamo arrivati a conoscerci e abbiamo avuto l'idea appunto di metterci insieme e suonare, vedendo che c'era già feeling tra di noi e poi insomma anche a livello musicale avevamo tanto da dirci. Bellissimo, bellissimo questo. Come si può presentare la vostra musica? Rock metal, rock punk, punk and roll? Allora, una cosa che non ci piace tantissimo è quello di etichettarci in un genere specifico, perché siamo del parere che una cosa, se viene etichettata, viene anche limitata allo stesso tempo. Però una cosa fondamentale è dire quali sono le nostre band di riferimento, che rientrano proprio nei generi che hai citato, quello del punk and roll, come i Social Distortion ad esempio, o magari gruppi un po' più spinti che vengono dall'Europa del nord, come ad esempio i Backyard Babies, gli Hardcore Superstar, che danno un tocco un po' più moderno al nostro suono. Poi ovviamente veniamo tutti da background musicali differenti, quindi anche questo si sente nelle varie canzoni e soprattutto durante le esibizioni live. Se non sbaglio, i fondatori della band sono Peocoloco e Enrico Maria Rossi. Confermo. Bene. E che decidono di mettere un po' in piedi questa band nel 2014 circa, perché siete giovanissimi come band. E poi da lì in pratica che succede? Decidete questo, che succede? Io lo lascerei raccontare a Enrico questa cosa, perché è stato lui in parte artefice di questa cosa. Allora diciamo che precedentemente io e il Peoco suonavamo in un altro gruppo, poi ci siamo persi di vista solo musicalmente, ma non dal punto di vista dell'amicizia, per un po' di tempo. E io, diciamo, dopo un piccolo periodo in cui non praticavo, non suonavo, non facevo niente, mi è ritornata la voglia di suonare. Ho ricominciato a studiare lo strumento e ho ricominciato a suonare. Ovviamente la prima persona che ho contattato è stato Marco, per chiedere se aveva voglia di ripartire a rifare qualcosa assieme. e diciamo che da lì è stato un vulcano, nel senso ci siamo trovati io e lui. Ovviamente abbiamo provato delle altre persone, abbiamo provato con altre, altre realtà, e poi per caso un giorno chiedevo di una persona brava, ma non tanto brava, in quanto brava a dedicarsi al gruppo, a aver voglia di suonare, e mi hanno detto: ma c'è un ragazzo, sai, si è trasferito qui, ci ho parlato, e insomma mi hanno presentato Deezer. Quindi ho chiamato Deezer, mi ricordo ancora quel giorno da casa mia che l'ho chiamato, ho detto: ma tu hai voglia di suonare? Come, sì, ho voglia di suonare. Sì. Sai, queste cose nascono per caso. Ho detto: vengo dalla Puglia. esatto, voleva suonare la pizzica, però ho detto: no, guarda. Forse non ci sta. E da lì poi ti dico, è stato veramente come chiudere gli occhi tre volte, ci siamo ritrovati qui. Quindi poi si è inserita sì. Alessia, scusami, sì, perdonami. Sì. Loro avevano una bassista, Olga, che salutiamo, che adesso vive a Berlino. E appunto con la scelta di andare a vivere a Berlino, lei ha contattato me, che ci conoscevamo già, e appunto mi ha lasciato il posto. Diciamo. Quindi sono entrata io e da lì abbiamo continuato la nostra vita musicale con un sacco di live, canzoni e via. Ecco, tra l'altro io li vedo qui davanti, sembrano così calmi, ma andate a vedere un po', soprattutto il primo loro video, come sono scatenati invece nel palco. Vabbè, alla fine, se vuoi, prima di andare via distruggiamo lo studio. Lanciamo qualche sedia in giro. Abbiamo le mazze in macchina. Esatto. Meglio non provocarvi su questo. Comunque ragazzi, ancora non c'è quindi un album, voi avete fatto due inediti, però presumo che sarà quello un po' il percorso, visto cosa state suonando. E Peoco Loco ha tutto sotto mano, adesso ci spiega lui il percorso. Vai Peoco. Non abbiamo ancora scelto bene cosa ne sarà di noi, al momento registriamo quello che riteniamo che vada per la maggiore, che ci piace di più, e viviamo di giorno in giorno, insomma è una continua scoperta anche di cosa ci attende. Al momento non ci facciamo grossi piani, insomma. Sì, diciamo che come un po' la questione del genere musicale, volerci impacchettare in un album magari ci costringe a fare delle sessioni di lavoro molto lunghe, soprattutto per noi che comunque purtroppo al momento la musica non è il nostro lavoro principale, sì, quindi il tempo sì. che possiamo dedicare è poco, e ci porta a avere dei processi molto lunghi. Decidendo di fare un album saremmo magari ancorati a un certo tipo di lavoro per troppo tempo. Invece, guardando anche la situazione musicale attuale, guardando anche i trend della diffusione della musica con tutte queste piattaforme di streaming, Spotify, Apple Music, YouTube, eccetera, preferiamo più avere una costanza di pubblicazione e, diciamo, dare materiale nuovo agli ascoltatori il prima possibile, anziché magari rinchiuderci in studio per un anno, ecco, per poi tirar fuori qualcosa che già non ci rappresenta più a livello artistico, perché il processo è stato troppo lungo. Questo non significa che non potremmo arrivare comunque a raggruppare tutti i nostri singoli in una pubblicazione, certo, che può essere un album. Certo. Questa sera noi siamo qui per parlare di voi, ma soprattutto per fare ascoltare la vostra musica. Io direi di partire con il vostro ultimo inedito. Diciamo anche di cosa parla e come lo avete costruito dopo la prima uscita. Allora, Don't Tread on Me è una canzone che non vuole essere impegnata socialmente, ma il tema che tratta riguarda molto la società in cui viviamo, che dove, diciamo, nella società abbiamo perso un po' il valore degli affetti, della semplicità anche della vita, e c'è sempre questa corsa al successo, al denaro, molto spesso scavalcando chi ci sta a fianco e soprattutto gli amici. E la canzone parla proprio di questo. Ripeto, noi non vogliamo fare né politica né morale sociale con la nostra musica. Noi suoniamo perché è la nostra passione e la nostra vita. Non vogliamo dare un messaggio alle generazioni, ma penso che purtroppo un po' tanta gente si sarà sentita nella stessa nostra situazione quando abbiamo scritto questo brano, in cui volevamo urlare il nostro, diciamo, la nostra rabbia verso questo mondo e sperare in un mondo migliore, appunto. Sì. Quindi anche la canzone nel dettaglio parla proprio di questo rapporto fra due amici, dove c'è un elenco di negatività, insomma, della società, e proprio nel pre-ritornello chi canta dice, dico chi canta perché ognuno di noi può mettersi nei panni di chi canta, proprio alla luce di quello che ho detto prima. Dice, mi avevi detto di essere diverso, ma in realtà non è così. E quindi poi da lì parte tutto, insomma, un dialogo fra loro due, così. No, più verso la fine mi sono riservato anche una domanda appunto sulle tematiche veramente del rock. Comunque ci arriviamo un po' alla volta. Benissimo. Ascoltiamoci questo vostro ultimo inedito. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Ecco, l'invito che vi faccio è di andare a vedere anche i video, così vi rendete conto anche dell'intensità, della grinta che ha questo gruppo. Soprattutto anche Diesel nel cantare, che gliel'ho detto prima, veramente trasmette inevitabilmente una grinta, una forte grinta. Penso che i live saranno meravigliosi. È l'animo pugliese, quello, l'animo pugliese. Lo carichiamo a bombette primitivo prima di ogni video. Sì, soprattutto i live. Infatti noi invitiamo la gente ai nostri live perché... Ecco, secondo me per avere una vera experience, facciamo una cosa un po' così, international, una vera experience dei Dead After Weekend, è immancabile live. Perché nel live riusciamo a dare il meglio di noi stessi e si assapora davvero l'animo della band. Ci arriviamo perché vedo che è un aspetto importante per il gruppo i live. Volevo fare una domanda a Ale. Volevo che tu mi parlassi delle caratteristiche musicali, anche caratteriali, sempre inerenti alla musica dei tuoi compagni di viaggio. Adesso dirà cose bruttissime. Come caratteri loro o come caratteri del gruppo. Allora, come caratteri noi siamo abbastanza delle teste calde e su tutto, e soprattutto anche sulla nostra musica, che appunto siamo sempre qui a impegnarci molto su qualsiasi ambito, per dire chi si occupa della registrazione, quindi del producer che ci accoglie in studio a registrare, chi invece si occupa delle date, quindi sente i locali, chi ha i contatti col manager, e quindi anche lì è molto importante. Un sacco di cose, insomma, facciamo tutti e quattro un sacco di cose, sia nella vita sia appunto per la nostra musica. E questo è un po' la forza del gruppo, anche perché è bene avere sempre un animo positivo su tutte le esperienze appunto di vita, soprattutto per la musica, secondo me. Questo è un bel progetto in cui noi crediamo molto e si vedono anche i risultati, dai. Chi mi parla invece di Ale Bassister? Immaginavo. Allora, Ale, da quando è entrata nella band, devo dire, si è subito integrata tra di noi. È fantastica perché è una ragazza che è alla mano, non è magari, ecco, sfatiamo questo mito, magari uno dice: caspita, quelli hanno una ragazza nella band, immagina che casino. Diciamo che Ale, che è quella che dà meno problemi, la donna della band che dà problemi sono io, ovviamente. Possono confermare tutto. Ma anche a livello di dicessi che i problemi sono loro, no, sono due. No, sono io. Penso anche quando dobbiamo fare live, tipo io prima di fare live devo fare la doccia, devo fare il parrucco, Enrico ne sa qualcosa, si deve lavare i capelli, nonna, devo lavare i capelli perché poi abbiamo il concerto. Esatto, invece lei è alla mano e soprattutto ha tanta energia, si dedica alla band, sempre disponibile anche per i lavori più di forza. Magari uno dice: c'è una ragazza nella band, quando scarica magari lei è quella che fa anzi è quella che fa di più di tutto, anche perché ha un amplificatore che è alto quanto lei, quindi è fantastico. Sì, è quello che si vede nel video. Esatto, sì, esatto. Infatti ho detto, ma è gigantesco. Però non riesco a scaricarlo da sola. Però lei... Per quello chiedo sempre l'aiuto. Soprattutto è lei che ha il furgone con cui andremo in tour in Repubblica Ceca, e quindi poi ne parliamo dopo di questo, diciamo, è un piccolo E poi teasing. Parleremo anche dei siti, delle date, dei live, eccetera. Esatto. Ale, perché si sceglie di suonare il basso? Perché non si sa suonare la chitarra. È vero. Io ho cominciato subito a suonare il basso, cioè non ho cominciato dalla chitarra o altri strumenti. Ho cominciato a suonare il basso un po' per caso, perché c'era una band che cercava un bassista e su quello mi sono offerta volontaria. Appunto ho detto, avevo 15 anni, 16 anni, insomma, mi butto io a suonare il basso, dai. Sono andata a lezione da un mio amico che aveva fatto scuola, quindi ho fatto 3-4 anni di lezioni da lui ogni settimana. Si studia tanto all'inizio, si dovrebbe studiare anche dopo, però si accumulano tutti gli impegni, logicamente, della vita, e si cerca di suonare il più possibile, quello sì. Ma diciamo che hai tre gruppi. Esatto, quindi sì. Non studia, ma... Sì. Cioè. Sì. Io ero fermo a due, ne hai tre invece. Sì, tre. Che tre, sono? Esatto, che sono le Black Dust, un gruppo di ragazze, facciamo hard rock, e l'altro gruppo strumentale, gli Ubris, facciamo stoner. Non c'è cantato, c'è solo appunto musica. E quindi così si comincia. Io ho cominciato subito a suonare il basso ed è uno strumento che mi ha subito fatto innamorare della musica, perché è proprio il basso che ti fa muovere ai concerti, ti fa muovere. Basso e batteria, secondo me, la sessione ritmica delle canzoni sono quelle, diciamo, che devono esistere su una canzone. E anche tutto il resto, per carità, la chitarra, tutti gli strumenti, però quelle canzoni che manca il basso e batteria la senti, che proprio non c'è quel piede che si muove o quella... Manca qualcosa. Sì. Allora ragazzi, entriamo nei live. perché ho visto che ne fate parecchi. Dal vivo in Italia sappiamo che non è facile suonare, però nonostante tutto voi ho visto che ne fate tanti. Come mai a voi viene così facile suonare così tanto in Italia? Merito di Peoco Loco e alle bassiste, perché sono le tormentano le i locali e quindi in realtà diciamo che all'inizio anche per noi non è stato facile. Poi successivamente anche attraverso la collaborazione con il management Story Mom, poi anche noi crescendo, come si suol dire, una cosa tira l'altra, quindi anche noi abbiamo cominciato con i nostri primi live, la conoscenza, la gente ha cominciato ad ascoltarci, piacevamo, e da qui sono scaturite le varie cose. Sì. Tra l'altro Sorry Mama mi ha detto, cioè da quello che so si lavora anche molto bene, no? Vi lascia parecchio spazio, vi lascia sì, tanta libertà. I ragazzi sono fantastici con noi, nel senso che non c'è stato mai uno scontro con loro dal punto di vista della visione della band. Diciamo che loro riescono a capire qual è la tua propensione e accompagnarla per farti rendere ancora meglio. Questo è una cosa che a noi serve fondamentalmente adesso, mentre sempre lo stesso discorso di non limitarsi, magari un altro management che ci poteva prendere e imporre un certo tipo di lavoro, magari non ci avrebbe fatto arrivare neanche qui. Io direi di riprendere in mano un po' la musica e preparare un attimo la chitarra. Subito. Chi ci presenta la prossima canzone finché Deezer si prepara? Adesso faremo You're Gonna Like It. Quindi Marco parla di You're Gonna Like It. Ale, vuoi dire tu qualcosa? Perché... Lui è lì tranquillo. Sì, lui non... sì, dice fate voi, io vi ascolto ogni tanto, se volete dico qualcosa. Si è portato anche le ciabatte, no. Sta più comodo qui in studio. Questa canzone è uscita molto spontanea. In breve tempo abbiamo messo su questa canzone che veramente è un po' una canzone un po' seduta, diciamo, tranquilla rispetto alle altre, alle prime che abbiamo fatto come Troublemaker e Don't Tread on Me. Difatti l'abbiamo portata anche qui in acustico, è una canzone che si presta molto all'acustico ed è però comunque piena di cori, di vita, ecco. Quindi... Sì, oggi ovviamente in acustico faremo tutta una versione un po' più lounge delle canzoni, però certo. Infatti perché non vogliamo svelarvele completamente, in maniera tale da venire a sentirle nei live e aspettarle le prossime uscite. Certo, ne faremo tre in acustico. Sì, okay? Esatto. Vai. Radio Cooperativa. Io dico che è sempre meraviglioso vedere suonare dal vivo qui in, qui in studio. Peccato che non abbiamo dirette, ma magari chissà, un giorno le faremo anche. Voi avete già suonato anche all'estero o avete fatto solo in Italia? Al momento abbiamo suonato solo in Italia, ma come preannunciavo avremo tra poco un piccolo tour all'estero, la nostra prima esperienza all'estero come Dead After Weekend, perché poi Enrico e Peoco hanno già suonato con un altro loro progetto all'estero, magari dopo ci possono raccontare qualcosa per farci ridere volentieri, un po'. Volentieri. E sì, come dicevo, a maggio partiremo per questo mini tour che dovrebbe essere in Repubblica Ceca. Molto presto sveleremo tutti i dettagli sulle pagine social della nostra band, quindi continuate a seguirci per che dopo scoprire. Daremo comunque. Esatto. E quindi chi vuole raccontare questa avventura all'estero? Ma Enrico è molto bravo a far qui divertire a raccontare. Qui è sempre Marco che cambia, prende la palla e la tira subito dall'altra parte. Esatto. Vai Enrico. No, beh, la nostra, abbiamo fatto questa avventura dove abbiamo suonato in Inghilterra con il vecchio progetto in cui c'eravamo io e Marco, e tra l'altro c'era anche mio cugino che suonava il basso. È anche lui bassista di un altro gruppo storico padovano, un gruppo hard rock, i Baby Root, che saluto tutti quanti. E siamo finiti a suonare a Brighton, quindi diciamo catapultati in questa dimensione che è l'Inghilterra, dove arrivi a suonare, e prendiamo l'aereo, andiamo in aeroporto, quindi arriviamo a questo locale, ci si presenta tutti quanti: ah, questo è un gruppo svedese, questo è un gruppo che viene da dove venivano, la Germania, non so dove, ma insomma da ogni dove c'hanno gruppi. Ragazzi, facciamo questo breve briefing, poi domani c'è questo festival dove si suona. Vabbè, te la faccio breve. Alla fine penso che siamo finiti alle 5 della mattina disintegrati, ma cioè di cui non sapevamo dove eravamo, con il nostro cantante che si è spogliato ed è saltato dentro l'oceano, il canale della Manica, a fare il bagno. E quindi abbiamo passato tutta la notte a coprirlo, riscaldarlo, dargli tachipirine, perché il giorno dopo dovevamo suonare, e chiaramente l'appuntamento era alle 9 della mattina. Quindi siamo arrivati crepati, e in effetti i nostri amici svedesi ci hanno ripigliato con una bella sarda e un bicchiere di vodka. Però è stata un'esperienza fantastica. Abbiamo conosciuto un sacco di gente, conosciuto realtà diverse, conosciuto un modo di ascoltare musica lì in Inghilterra, è fantastico. Cioè, la gente viene sotto il palco, vuole che tu suoni, impara i ritornelli, li canta con te, finisci di suonare, ti pagano da bere, vengono a farti complimenti, cioè nascono amicizie, nasce di tutto, è stupendo, è bellissimo, un'avventura molto bella. Siamo tornati a casa, probabilmente avremmo perso questi 5-6 anni di vita, però insomma, però ci sta, ne valsa la pena. E a proposito di live, visto tutta l'energia che scaricate sul palco e che date, perché immagino che date molta energia, a voi che rimane dopo un concerto così? Senz'altro andare a dormire subito dopo il concerto è difficile, nel senso che, ad esempio, personalmente, come diciamo con il quinto Dead After Weekend, quelle volte rimango tutta la notte a riguardare i nostri live, a riguardare i momenti, perché l'energia e l'adrenalina che ti sale è tantissima, soprattutto nelle occasioni in cui il pubblico si rende tanto partecipe dei live. Ovviamente non manca l'autocritica, nel senso che cerchiamo di migliorarci di live in live, riguardare quello che abbiamo fatto, ma ogni esperienza è differente. Poi è bellissimo vedere come magari ad un live ti fai un'idea su di una canzone perché il pubblico ha risposto benissimo, e un'altra magari la screditi un po', e il live immediatamente successivo hai la dimostrazione opposta. E questo è bello da vedere come tante volte esci su un palco non aspettando di chissà quanto, perché magari nessuno ti conosce, invece la risposta è fenomenale. Come abbiamo avuto situazioni in cui abbiamo suonato davanti a tanta gente ma non c'è stata una risposta ottima, e altre situazioni in cui abbiamo suonato davanti a 4 persone, perché essendo un gruppo emergente capita, ma sembrava di suonare davanti a uno stadio per l'energia e la carica che queste 4 persone certo, avevano. Certo. Io rimango un po' sempre sull'ambito dei concerti. Ne avete fatti tanti, e qual è che vi è rimasto, che vi ha dato qualcosa di più come concerto? Allora, io mi ricorderò sempre il concerto del Fair Rock a Vicenza, che è un festival all'aperto, quindi in pieno luglio. Noi eravamo sudatissimi perché abbiamo suonato alle 7:30, 8 di sera, e cioè alla fine l'ultimo nostro brano è stato Troublemaker, che era appena uscito il video o stava uscendo, avevamo portato in studio, quindi eravamo carichissimi per fare Troublemaker. Siamo arrivati a fare Troublemaker e abbiamo tirato su tutti quanti sul palco. Cioè, sul palco c'erano tipo 30... C'è un video 30... su Facebook che potete trovare. Sì, esatto. Sì. L'ho visto. C'erano 30 persone sopra il palco, non sapevamo più come suonare perché non ci stavamo con gli strumenti e tutto. Quindi è stato bellissimo quell'esperienza lì, me la porterò sempre. Sì. Come ad esempio, invece, un'altra esperienza che c'è, almeno personalmente, mi è piaciuta tanto, è stata proprio un'esperienza recente, che è stata all'Enjoy. Enjoy Club di Vicenza, giusto? Sì. Sì, scusate, sono così artista che non ricordo dove. Sei così pugliese. No, semplicemente non ricordo i posti. Sei perdonato per questo. No, a parte questo, io ho proprio difficoltà a ricordare i nomi di tutti i paesi che ci sono qui vicino. Ma perché il mio cervello ormai è bruciato. E dicevo, quindi abbiamo suonato l'Enjoy Club ed è stata veramente una serata impressionante dal punto di vista sia della gente che c'era, ma anche della professionalità dello staff all'interno, un palco molto grande, è stato fantastico. Speriamo di fare più e più serate di questa tipologia, anche se, devo dire, anche le serate nei locali piccolini con la gente addosso ci fanno impazzire. Purtroppo quando si vive di musica, il live è come il pane quotidiano. Sì. Da buon pugliese comunque non si smentisce, è un buon chiacchierone. Poi vi faccio suonare nuovamente in acustico. E a proposito di live, che avevo letto una cosa e sono un po' curioso, no? Lo scorso anno avete rifiutato di aprire un concerto di Vasco Rossi a Euganeo di Padova. È una fake o è vero? È una fake. Questo te lo può spiegare Peocco. Questo te lo può spiegare Peocco. Era la stessa sera più che altro. Ecco perché. Sì, ma cosa avevamo? Ai Navigli, abbiamo suonato ai Navigli. Ah, ecco, sì, avevamo una serata in concomitanza e siccome non si faceva altro che parlare del concerto di Vasco Rossi. Sì, io sono arrivato in ritardissimo anche al concerto perché ho trovato colonna. Esatto, allora abbiamo giocato un po' su questa cosa qui. Ho detto perché è impossibile la cosa. Sì, esatto. Glielo chiedo o non glielo chiedo? Ho detto vado, gliela chiedo. In realtà era Vasco Rossi che doveva aprire il nostro concerto. Ecco. Ai Navigli. Poi l'hanno spostato a Logan e non si è più fatto nulla. Bellissimi. Sì, infatti, una cosa che volevo dire è tutto quello che vedete su Facebook, su Instagram no, perché lo gestisco principalmente io, ma su Facebook non gli credete perché lo gestisce Peocco e anche Enrico, quindi a meno che non siano comunicazioni ufficiali della band, tipo uscite di album, CD, live e cose, tutto il resto lasciate perdere. E sembra strano, ma quando ci sono poche parole scritte è Dizzer che scrive, e quando ce ne sono tante sono io. Esatto. Al contrario di quello di stasera. Dizzer, presenta il prossimo brano. Allora, il prossimo brano si intitola Like a Cat ed è un brano un po' più movimentato rispetto a quello di prima. Diciamo, è sempre un brano che parla di cambiamento di vita, è un attimo ribellione a una situazione un po' noiosa che si vede, infatti dalle parole, magari guardando il testo, si può vedere, ed è una canzone che dedichiamo a tutti coloro che vivono un momento un po' così, che non significa per forza una vita sfortunata, ma una situazione un po', sai, di paranoia, una situazione un po' di stasi della vita in cui tutto è grigio, basta, bisogna trovare le forze appunto per andare avanti e dare una svolta a questa vita. Vai. Standing on my way, I'm tired of this town and this boring life. I see you lying on my bed, you're still sleeping while I'm gonna wait. I'm tired of you, girl, and this boring life. I wanna dress like a mess, live like a cat. All I need. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ecco, a proposito di Vicenza, nel 2017, appunto all'ottava edizione del Vicenza Rock Contest, avete preso un bel premio, secondo me, che va oltre ogni cosa, perché è il premio della giuria popolare. Quindi le persone presenti, presumo, così, hanno giudici votato. Giudici presenti. È stata una bella soddisfazione, penso. Sì, per è voi, stata no? Una fantastica soddisfazione, è stata la conferma di quello che abbiamo detto anche un po' prima, cioè che durante i nostri live c'è davvero un bel rapporto con il pubblico e c'è trasmissione di energia fra noi e il pubblico, senza fare tanti voli filosofici, ma semplicemente noi diamo il nostro massimo sul palco e la gente risponde apprezzando, ovviamente. Certo, questo è molto bello. E i vostri ruoli realizzativi all'interno del gruppo come sono? Cioè chi compone i testi, quali avete dei ruoli precisi o tutto si fa in... Allora, in realtà tutto si fa in collaborazione, non c'è mai qualcosa che nasce esclusivamente da una persona. Diciamo che molto, come puoi immaginare, essendo il cantante, magari mi viene più facile, ecco, scrivere testi principalmente, o comunque sia ai due chitarristi magari viene più facile proporre un giro di chitarra rispetto che al batterista e così via. Ma la cosa bella che ci contraddistingue è che ogni pezzo, diciamo, è uno spunto che nasce in sala prove, qualcosa, un'idea che viene messa in sala prove, poi viene costruita insieme passo dopo passo. Ale, tu volevi dire qualcosa? No, beh, ha già detto tutto di zero. Lascio la parola a lui. Tu mutami il microfono, altrimenti io vado avanti. Volevo ritornare un po' prima, si parlava del rock. Leggo che il rock ultimamente non riesce più a dare quella spinta di innovazione e libertà che c'era negli anni 80 e 90. E in pratica che non si riesca più a proporre qualcosa di nuovo. Pensando proprio oggi, ascoltando la vostra musica, soprattutto ascoltandovi anche questa sera, non mi trovo d'accordo su questo. Grazie. Erano periodi diversi e c'erano delle novità, però io vedo che il rock va avanti, prosegue. Sì, come? Secondo me il rock non ha mai smesso di tirar fuori novità, dagli anni 50 con Elvis Presley fino adesso, comunque, con ancora tutti questi nuovi gruppi che emergono sempre sia sulla scena padovana, che è pieno comunque di gruppi molto validi e molto bravi, e in tutta Italia, in tutto il mondo, insomma, si è sempre ispirati dal rock per qualsiasi, secondo me, altro genere di musica nuova. E poi i generi nuovi che adesso vanno magari possono essere passeggeri, però il rock, diciamo che non è mai, sono di quei generi che non vanno mai fuori moda, ecco, e certo, neanche non vanno mai di moda, quindi certo, sì. Sono di quelle cose intramontabili. È come quando si parla di musica, che c'è poco, ci sono poche proposte. Anche questo non è vero, perché io, assolutamente, occupandomi un po' da più di qualche anno di musica emergente, scopro veramente dei gruppi e dei cantanti che veramente non hanno nulla che invidiare dei big. Veramente certo, c'è della musica che è straordinaria, logico che manca la visibilità, perché sì, le case discografiche, sì, ormai sono poche. Perché c'è tutta una scena underground, e se vediamo qua in Italia ci sono altro che talent, se guardiamo solo la TV ci sono altro che talent basati su pop, trap, tutto quello che, diciamo, è passeggero, ecco. Certo. Però i musicisti non mancano, perché come vediamo i grandi gruppi, o tutti anche i big che hanno grandi nomi, hanno dei grandi musicisti dietro, e senza di loro non riuscirebbero a fare tutta questa strada. Sicuramente, per fortuna tutto sommato che c'è anche internet, magari esatto, non ti permetterà di vendere delle copie, però quantomeno è un canale divulgativo enorme per la musica. Ed è anche fondamentale. È fondamentale. Per me, ad esempio, è fondamentale. Cioè il fatto anche di ti mandano del materiale da ascoltare, ma poi vado anche a vedere. Quindi anche perché anche l'immagine, anche il video ha un suo impatto nella musica. Nel caso vostro, ad esempio, ho visto i due video che mi sono piaciuti tantissimo perché sono fatti. Chi vi fa i video? E i video sono stati fatti da due persone differenti. Il primo è stato fatto da un pugliese, cioè da un mio amico. Che immagino che sarà il video più bello allora. No, secondo me è come quando abbiamo i video, quando una band ha i video o ha le canzoni, è un po' come chiedere a un padre o a una madre qual è il tuo figlio preferito. Ognuno è a sé stante, non si può scegliere il migliore a quello a cui si vuole più bene. Infatti anche questi video sono così. Sono due impatti diversi. Comunque. Esatto. Io parlo a titolo personale. Sono no, due no, impatti è diversi. Proprio così, ed è stato quello il. Cioè la volontà nostra è stata proprio quella di dare due aspetti completamente diversi ai video. Infatti la prima è una canzone, il primo video e quindi il primo singolo, Troublemaker, che ascolteremo dopo, è una canzone che anche nelle sonorità, sia proprio come concetto di canzone, molto più pomposa, ariosa e grande. E trascina anche tanto. Esatto. Invece Don't Tread on Me vuole essere una canzone non introspettiva, perché alla fine non lo è davvero, però un po' più meno fuffo e più sostanza. Infatti anche come è stata composta è molto più semplice dal punto di vista come dire, concettuale, esatto, non c'è tutto il trainare il pubblico e così via, ma è più un messaggio diretto. E quindi per far arrivare il messaggio in maniera diretta e semplice abbiamo dovuto togliere tutti i pizzi e i merletti che c'erano attorno e fare un video semplice all'osso, ma che comunque attiri l'attenzione. Tanto ti prepari per la prossima canzone, io faccio una domanda alle Bass Sister. Come mai alle bassiste? Bass che bassiste, sorella, cioè sì. Legato tutto questo. Sì, perché da piccolina mi chiamavano sempre, tutti i miei amici mi prendevano come una sorella e quindi ero sempre la più piccola della compagnia, quindi mi chiamavano sempre sorella, oppure dalle mie parti si dice messorella. Sì, messo, sister, e quindi alle bassister. Te sei entrata nel 2015, giusto? Sì. In questo gruppo, che cosa hanno rappresentato per te questi tre anni? Una rottura di scala. In realtà sì, no. No, dai, c'è stata una grande crescita sicuramente, beh, a livello sia musicale sia partecipe del gruppo, proprio gruppo inteso come band, come gruppo di lavoro, perché si sono toccati tanti aspetti che nelle band di prima non avevo avuto, come appunto il fatto di avere un manager oppure preparare un tour o prepararsi per tanti live, tutte cose che sulla band va benissimo avere, perché si cresce molto con tutti questi obiettivi, tutti questi impegni, tutte queste cose che secondo me tutte le band devono avere degli obiettivi, ma anche molteplici. Cioè siamo in quattro, abbiamo tanti quattro ruoli e appunto ci si diverte tutti e si porta con la forza di tutti, si arriva in tanti a raggiungere tanti obiettivi, appunto. Enrico, tu sei uno dei fondatori di questo. C'è un risveglio. Sì. Mi ero preoccupato. Peocco lo lascio lì, lui sì, tranquillo. Sì. Peocco, adesso alla borsa. Sei una copertina, calda. Esatto. Sei una copertina, lui sta comodo. Enrico, no, volevo chiederti, come fondatore del co-fondatore del, posso dire così, co-fondatore del gruppo. Sì. E maggiore azionista. come sono stati questi tre anni? Una bella crescita, sicuramente. Ma assolutamente, nel senso che abbiamo inanellato una serie di esperienze nuove, penso per ognuno. Ha detto inanellato? Sì. Insomma, una serie di esperienze nuove, comunque anche, penso per tutti, anche se non fossero nuove, fatte con quest'ottica, comunque un'ottica più matura rispetto a quando hai 20 anni, 18, in cui suoni, magari hai più possibilità di investire sia dal punto di vista economico, magari meno dal tempo, però in una maniera più seria. E quindi sono stati tre anni di forte crescita in cui facevo fatica a voltarmi indietro per vedere la strada che avevo percorso, perché continuavo a vedere tutto quello che dovevo far davanti, no? Dovevamo far davanti. Ogni tanto però, quando ci fermiamo, allora riguardiamo i segni tangibili di quello che abbiamo fatto, la musica, i video, i concerti, e allora lì capisci veramente quanto è stata bella la strada, quanto è stata, per carità, anche difficile delle volte, certo. Però ti rincuora, perché ti fa prendere la forza per poter andare avanti. Quindi sicuramente è stata una crescita, credo, per tutti. Per tutti. Dizer, io ti lascio la vostra voce, perché quella di sottofondo che sentite è anche quella di Ale. Lascio spazio alla tua chitarra, la prossima canzone. Il prossimo brano è un'anticipazione del prossimo singolo, si intitola Where the Sun Still Shines. La dedichiamo a tutti quelli che, diciamo, nella vita hanno affrontato dei brutti momenti, ma ne sono usciti più forti di prima. Sì, abbiamo sempre questo tema del cambiamento, forse perché mi ero trasferito alla Puglia a Pava, quindi ragazzi, prendetene un po' così queste canzoni. Però... Ma è sempre l'energia del rock, la positività, esatto, la forza. Esatto, siamo sempre in positivo. What should I say? What should I do? This world surrounds me, but I've had this chance. What should I say? What should I do? I feel so cold, but I will light the flame. The only thing left for me is to bury my memories, keeping my eyes on the cross. What should I say? What should I do? Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ragazzi, io vi chiedo una cosa a questo punto, dei buoni motivi a chi non vi conosce per ascoltare la vostra musica e per venire ai vostri concerti. Divertirsi! Esatto, sì, far casino, quello sicuramente. Sì, far casino e passare uscire una di serata, casa. Sì, passare una serata fantastica. Ecco, soprattutto ascoltare la nostra musica, magari non in queste versioni acustiche, non siamo riusciti a trasmetterlo benissimo, ma in realtà io immagino che chiunque, o almeno il nostro obiettivo è quello, se magari ha una giornata un po' giù o semplicemente un po' lenta di ritmo, basta mettersi cuffie, Spotify, i Dead After Weekend, e vai che la giornata parte alla grande, certo, con la carica, certo, insomma. Voi conoscete i Capobranco, no? Sì, certo, sono, ecco, nostri amici. Allora, presto avrò qui in studio anche i Capobranco. Fantastico. E quindi un messaggio per i Capobranco, poi glielo farò ascoltare. Beh, ovviamente lo deve lasciare Rico perché, diciamo, è il più affezionato, ecco. Beh, allora, svelo un piccolo segreto. No, il batterista è Capobranco. Il Capobranco sono io. È il mio... No, io il batterista... Io Capobranco. Enrico, che saluto, è il mio maestro di batteria. Ormai sono 3 anni che sto studiando con lui. Alex è un amico di vecchia data, tra l'altro un componente dei Baby Root, di quel gruppo che dicevo che mio cugino suonava, che saluto nuovamente. E Valerio è un altro amico. Sono 3 ragazzi fantastici, sia dal lato umano, che è la cosa più importante, ma anche dal lato musicale. Sono 3 bellissime persone, sopra il palco, giù dal palco, nella musica, sanno comporre, sanno dare qualcosa di nuovo, perché quello che ho ascoltato, questo ultimo album che hanno fatto, è molto ma molto bello. E niente, il mio messaggio è che possano realizzare tutti i loro sogni, perché oltre ad averne diritto, è una cosa giusta, è una cosa giusta, perché chi impegna la sua vita nella musica così e produce questo tipo di musica deve avere risultati. Certo. Certo. Loro cantano in italiano. Sì. No? E io mi rendo conto anche una cosa, no? Perché io sono un amante della musica proprio italiana, cantata in italiano, però mi rendo conto che ascoltando anche la vostra musica o anche di altri gruppi, che non, cioè, con il tipo di musica che fanno, non ci sta a cantare in italiano. Sì, è una questione di sonorità. O mi sbaglio? No, no, è una questione di sonorità, di ritmica, di cadenza delle parole, che sono completamente differenti. Poi anche con l'inglese si possono usare delle forme contratte, diciamo degli slang che sono molto più musicali rispetto all'italiano. Diciamo che sì, essendo nato appunto in lingua inglese, il rock si presta maggiormente, almeno il genere che piace a noi e quello che vorremmo fare si presta maggiormente alla lingua italiana, però chissà. Certo. Magari in futuro i Dead After Weekend faranno un singolo in italiano e uno in barese con il tamburello della pizzica. No, Bari no, non si può. No. Niente, Tarantino allora. Esatto. Bene. Io ti sto guardando, ti sto ascoltando proprio anche su e pensavo al video, no? del concerto, che ti ho detto prima, mi sembri proprio un'altra persona, non ti vedrei a cantare un testo tranquillo in italiano. Esatto, è un po' difficile. Perderesti, diciamo, tutta la tua energia, non lo sì. so. Non lo so. Ale, che dici? Ma io dico che poi se un gruppo anche è proiettato un po' verso l'estero, o comunque a fare delle date, diciamo, internazionali o di fuori dell'Italia, ecco che lì, se l'obiettivo tuo è andare anche al di fuori dei confini italiani, è meglio cantare in inglese, che così ti capisce un po' tutto il mondo, ecco. A parte gli italiani, che non sappiamo l'inglese, cioè, tanto noi. Però, sì, no, però. No, noi italiani in generale. No, no, io sono il primo sì, perché sì. Io ho detto a Dita: guarda, dammi una mano, perché io con l'inglese non è il mio forte. Sì, diciamo che poi i nostri testi sono abbastanza semplici, quindi, e anche i ritornelli molto diretti, quindi sì, si capiscono abbastanza bene per chi sa l'inglese, almeno scolastico, ecco. Io volevo chiedervi, dopo Troublemaker Number One, perché così si chiama la canzone, sì, no? E, a distanza un po' di tempo, è uscito questo nel... Questo qui è uscito a dicembre del 2017. 2017, che sarà il brano, come abbiamo detto, di chiusura. E a distanza di tempo cosa vi ha lasciato questo brano? Allora, senz'altro Troublemaker è stata una delle prime canzoni che abbiamo proprio composto come band, ed è stato anche il nostro primo singolo. Quindi è stato un po' il primo passo nel mondo dei grandi. Diciamo, per la prima volta pubblicavamo un singolo, per la prima volta un video, per la prima volta siamo passati anche per radio, abbiamo fatto le prime interviste, quindi Troublemaker rimarrà, secondo me, sempre una pietra miliare del nostro percorso, ed è immancabile live, perché è proprio la canzone che sigilla quel rapporto con il pubblico quando si scatena nel ritornello della canzone, a cui dedichiamo anche più tempo. Insomma, c'è stato un periodo in cui anche alle prove suonavamo solo a quelle e la preparavamo il meglio possibile live, perché diciamo, caspita, questa è la canzone migliore che dobbiamo avere nella set list. Poi ovviamente si cresce, non si accantonano le cose, perché ripeto, sono sempre, come dicevamo prima, figli, però insomma la band si evolve un attimo, anche da lì il processo compositivo è cambiato un po' a livello di ritmiche, di cosa cerchiamo nella canzone e così via. Ma ci è rimasto tanto tanto lavoro, ed è stato la nostra prima opera, non parlo opera d'arte perché non è così, sì, un po' il nostro biglietto da visita. Esatto, dai. Quando uno vuole conoscere i Dead After Weekend, se mi chiede se è Troublemaker number one. certo. E ditemi una cosa, ragazzi, parlavamo prima del rock, così in linea generale, il parere mio, anche grosso modo il vostro, ma nel panorama del rock, qual è secondo voi ad oggi? Quali sono i gruppi che più rappresentativi del rock? Parliamo di musica in generale. Ecco, qui questo tavolo si spacca in adesso partono le sediate. Adesso abbiamo detto che ci voleva far distruggere lo studio. Vai. Ci è riuscito. No, allora dipende dal genere che guardiamo. Ad esempio, forse stiamo per entrare in un periodo in cui tornerà il vero e proprio classic rock. C'è un gruppo che io adoro e gli altri odiano, che sono ad esempio Greta Van Fleet, oppure abbiamo tutte band come Rival Sons, Goodbye June, tutte band che sperimentano, però sempre strizzando l'occhio al passato. Ma poi abbiamo anche tantissime band che si fondono con un genere che può essere un po' più pop, come i Nothing But Thieves, oppure ci sono le band tostissime che a noi fanno impazzire e martellano ancora nonostante abbiano alle spalle anche 20 anni di carriera, come i Backyard Babies, i Lucifer, tutte quelle band così. Però vediamo gli altri anche, dico, qua sembra che ascolto solo io la musica. Qui mi ci vorrebbe anche Alberto Prisco, che con me cura il programma, che lui tutti questi gruppi sicuramente riconosce. Sì, sicuramente sì. Secondo me Enrico può darci qualche nozione sulle nuove band che stanno portando il rock. Oddio. calmo, perché non possono partire sediati. No, per dirti, io credo, ci sono alcune band che non sono non giovani, ecco, mettiamole così, che io adoro, però la prima fra tutte è la band che mi ha fatto cominciare a suonare, sono i Green Day. Quindi pensavo fosse il Pooh. No, esatto, no. È un po' complicato. E quindi sicuramente quello è un gruppo che ha dato tanto e ha ancora tanto da dare. E dopo ci sono gruppi più o meno mainstream, altre cose, ma credo che insomma ci troviamo d'accordo che i Foo Fighters penso siano un gruppo che adesso è quello che forse ha molto da dire, molto da insegnare ancora alle nuove generazioni e anche alle vecchie. Poi, ripeto, sì, ci sono i Backyard Babies, ma li ha già detti Deezer. Poi a me piacciono ad esempio tutte quelle band che fanno rock ma mescolano un po' di influenze elettroniche, roba del genere, cosa che a loro fa schifo. Però ci sono tutti i cantanti, anche singoli, come Youngblood oppure Grandson o gli Highly Suspect. Tutte queste band che, diciamo, fanno sentire le loro influenze, che sono più a 360, a me piacciono tantissimo. Secondo me il rock, appunto, che è espressione personale senza contare gli standard della musica pop e così via, sono proprio, cioè, vive e si evolve grazie anche a queste band. C'è Marco nel frattempo che sta pensando a cosa rispondere. Siete sicuri che voglia dire qualcosa? Sì, sì, sì, vuole rispondere, lo vedo. No, io sinceramente... Io mi dissocio. sì, anche ecco. In parte sì. No, sinceramente non sono uno che è molto attratto dalla musica di oggigiorno, di quella che si sente in radio o altro. Mi spiace dirlo, ma no, non fa per me. Quindi fai parte di quelle categorie che dice che... Io sì, sono più attempato e quindi guardo molto di più al passato. Vedi, sono pochi artisti. Ci stava oggi la domanda giorno. Di prima. Esatto, noi siamo come lo Ying lo Yang alla fine nella band, no? C'è la parte avanguardista, c'è la parte un po' più conservatrice, perché ci dobbiamo regolare e prendere il meglio da tutte e due. Però fagli dire qualcosa, ti prego. Va bene. Ora che stavo per la scusate. Vai Marco. No, appunto io guardo di più al passato, ascolto un sacco di generi diversi, ma sì, tendenzialmente quello che il mainstream di oggi non lo sento come mio, non c'è nulla che nulla, c'è ben poco che salverei sinceramente. E c'è poca voglia di sperimentare e quindi ecco perché secondo me siamo ancora qui. È da 10 a 20 anni che non c'è nulla di veramente nuovo, di distruttivo come poteva essere il rock 30 o 40 anni fa. E i Greta Van Fleet fondamentalmente suonano i Led Zeppelin, che è musica di 50 anni fa, c'è poco da dire. Lo suonano benissimo, lo sanno fare molto bene e sono veramente bravi, dei grandissimi strumentisti, ma sono i Led Zeppelin, non c'è nulla di più. Diamogli tempo, diamogli piano. Sì, no. Sì, certo. Piano, non distruggermi i Led Zeppelin. No, cioè, i Led Zeppelin sono molto meglio. Secondo me ci daranno soddisfazione. E quindi Marco, per tornare un po', per ritrovare un po' quella forma, quel trascorso. Ma c'è bisogno di gente che abbia voglia ai piani alti, intendo gente che produca e metta i soldi, che abbia voglia di sperimentare, di certo è più facile investire soldi e sapere di avere un ritorno e quindi investire su cose trite e ritrite che si sa che verranno apprezzate dal gran pubblico. Non c'è più la volontà di rischiare e mettersi in discussione. E quindi c'è questo circolo vizioso che continua a non produrre niente e via così. Ragazzi, noi stiamo andando verso, purtroppo, verso la chiusura. E chiudiamo anche la rubrica lotta al mondo odierno. Ti sta provocando, È normale, devi assistere alle prove. Alla fine prove o finiamo col sorriso o che ci stiamo picchiando, quindi... Stasera col sorriso, però. Sì. Allora, dopo i saluti, chiuderemo il programma appunto con Troublemaker Number One. E di questa canzone cosa mi dite? Questa canzone l'ha scritta Marco, quindi ci deve parlare lui della canzone. Sei obbligato, Marco. Dai, non c'è non niente fare da fare. Così. È stato una tua idea, uno almeno dei primissimi, durante una delle primissime prove, che ho detto: ragazzi, io ho questo ritornello, cosa ne pensate? E la cosa sembra essere piaciuta e ci abbiamo cominciato a ricamare su. Diesel in 448 è arrivato con praticamente il resto della canzone fatta, testo e altro. E niente, da lì l'abbiamo confezionata e abbiamo cominciato a suonarla anche dal vivo. Sì, sicuramente è una canzone che vuole essere molto orecchiabile e avere un'esplosione nel ritornello, che è molto semplice e vuole arrivare immediatamente al pubblico, in modo da farlo cantare già dalla seconda volta che lo sentono, insomma. Quindi sì, è fondamentalmente energetica, ha un grande impatto e appunto è molto melodica ed è quello che fondamentalmente cerchiamo di dare quasi a tutte le nostre canzoni. Vogliamo qualcosa che sì, sia di impatto energetico, adrenalinico e che si possa cantare o vivere già da subito, pur non capendo magari il testo, perché comunque in inglese per gli italiani è difficile capirlo, o dare la possibilità di coinvolgere la gente in ritornelli o altre cose. Sì, poi a fare il video ci siamo divertiti tantissimo, perché è stata un'esperienza fantastica. Soprattutto sto video che parla un po' un giovane, diciamo, di oggi che è magari un po' un nerd o di quelli un po' sfigatoni. si rende chiaro nel video. Sì, che si guarda solo il telefono quando cammina. Noi invece lo rapiamo e lo portiamo al nostro concerto della serie. Dai, divertiti un po' e goditi la vita. Lo facciamo diventare un troublemaker. Esatto, diventa proprio il troublemaker number one. E a proposito dei video, vogliamo dare dei riferimenti web. Dove possono seguirti? Senz'altro su YouTube, come hai già citato tu, poi su tutte le piattaforme di streaming musicale, sulle radio appunto del Veneto, tra cui fantastica Radio Cooperativa Parma. E poi potete trovarci anche su Facebook e su Instagram, basta digitare Dead After Weekend. Per fortuna non tante band hanno questo nome, cioè solo noi, quindi è facile trovarci, ragazzi. E sì, seguiteci lì per scoprire tutti gli aggiornamenti sulla band, i prossimi tour, le prossime uscite, le fesserie che scrive Marco e tutto il resto. E i prossimi live? Avete in programma qualcosa? Allora abbiamo il 17 marzo, San Patrizio, domenica, facciamo questo aperitivo metal a Pederobba, al Saloon, in compagnia di altre tre band. E poi abbiamo la settimana successiva, il 22, che siamo a Lodi, e la settimana ancora dopo, il 29, che siamo, dove siamo? Via Plebiscito, qui, sì, a Padova. Esatto. Siamo qui a Padova, ragazzi. Il 29? Il 29, sì. Venite, siete degli ascoltatori, di Greta Van Fleet. Sicuramente verrò con Alberto ad ascoltare. Sì. Grande! Sì. Sì. Ma il Plebiscito dove? All'IP. C'è la pompa di benzina IP, sì, che ha un bar di fianco, sì, e lì ci si organizza anche per belle serate. Perfetto, esatto, perfetto. Noi suoniamo là fuori con la benzina, ci diamo fuoco perché farà freschino. In compagnia dei nostri compaesani Winkers. Salutiamo tutti l'associazione benzinai di... Io volevo, ragazzi, darvi 30 secondi a ognuno di voi per dire qualcosa che magari non sono riuscito a chiedervi, oppure se avete l'esigenza di ringraziare qualcuno, salutare qualcuno, sempre in ambito musicale, perché capita magari che qualcosa a me sia sfuggito. Quindi ognuno di voi 30 secondi, leader. Te ne presto 10 o 20. Ti presta i suoi. Te li vende. Ok, parto. Vai, anzi, no, ti faccio chiudere, leader. Ok, va bene. Vai, Enrico. Sostanzialmente non credo di aver nulla da dire di più di quello che è stato detto. Semplicemente ringrazio chi ci viene a vedere, chi crede in noi, chi semplicemente mette un like oppure condivide la nostra informazione, anche se non è il principale fan, solo per alimentare tutto questo gremire di gruppi che ci sono, che cercano di farsi conoscere. Quindi io ringrazio tutte le persone che suonano, che fanno musica, e ringrazio la musica, perché comunque al di là di tutto è sempre lei l'anima di tutto. Marco. Sì, anch'io ringrazio la musica prima di tutto, perché è una mia grandissima passione, un passatempo. Devo dire che mi ha fatto anche conoscere il mio migliore amico e la mia attuale ragazza, quindi sì, devo molto alla musica. E ringrazio anche Radio Cooperativa, che ci ha dato questa grandissima possibilità, che è stata una signora intervista, non capita molto spesso, abbiamo toccato temi molto, molto belli, e per un musicista fa veramente molto bene venire. Grazie. Qui. Ale, Bass Sister. Allora, io vorrei salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutti quelli che ci ascoltano sia per radio sia su YouTube, tutti quanti, e vorrei invitare tutti ai nostri concerti. E posso dire anche una cosa, soprattutto i miei parenti che non vengono mai a vedere. Dategli un po' di soddisfazione. Ho un sacco di cugini e cugine giovanissimi che per quello dico, sti giovani che a volte non si godono neanche il fine settimana, cioè alcuni stanno a casa addirittura, e dico, ma sono di qua, sono di là, vieni a vedermi. E allora vorrei invitarli così sia ad avvicinarsi al mondo della musica, anche perché suonare uno strumento è bellissimo, sia anche ad ascoltare la musica proprio dal vivo, perché ascoltare il brano sulle cuffie siamo capaci tutti, però partecipare ai concerti, questo è l'importante, partecipare alla musica, quello è. Dizer. I ringraziamenti e i saluti sono stati fatti tutti, quindi mi raccomando, è un invito, supportate sempre la musica live in genere, soprattutto le band emergenti, perché ne abbiamo tanto bisogno e soprattutto ci si diverte un sacco. Seguiteci e venite ad ascoltarci live. Ciao a tutti. Ecco, io mi sono divertito tantissimo stasera. È stata per me una bella serata. Anche, noi. Anche per noi. E spero anche per chi è... Potremmo continuare all'infinito. Esatto. Gli dai un bicchiere d'acqua, Dizzer va avanti altre due ore. Immagino. Dizzer, Ale Bass Sister, Marco Peoco Loco, Enrico Maria Rossi, grazie di essere stati con noi e per aver condiviso la vostra musica. Grazie a te. Grazie. Grazie. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e d'impegno sociale.